Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il PD non entra nel merito di un tot nomi perché quella nomina compete al governo e qualunque sarà la scelta del presidente Gentiloni, il PD come sempre sarà con lui, lealmente con lui. Però a noi compete una valutazione politica, quell'istituto ha bisogno di ricostruire relazioni di fiducia con il sistema italiano e chiediamo che si apra una fase nuova. Chi la deve interpretare lo decide il governo. E questo ha detto, ha dichiarato Matteo Richetti, portavoce del PD, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito di questo che sta succedendo intorno a Banca Italia. Scoppiato il caso in serata, il PD ha presentato una mozione che è stata approvata alla Camera per praticamente non rinnovare, diciamo così, la carica al governatore della Banca d'Italia Visco, perché insomma a causa degli scandali bancari che ci sono stati nei mesi scorsi. Questa è la spiegazione che ha dato Richetti a chi li attaccava per inopportunità, per insomma per una scelta inopportuna, e adesso c'è anche la parte dell'opposizione che attacca Renzi. Il PD, Renzi dice: io non c'entro in questa scelta. Intanto è intervenuto anche Mattarella, Presidente della Repubblica, poi sentiremo che cosa ha detto, e anche Banca Italia, che ha replicato dicendo che ha fatto tutto nell'interesse del Paese, con trasparenza e sempre in stretto contatto con il governo. Cosa ne pensate di quello che sta succedendo? Man mano ve lo spiego, ve lo racconto insieme agli ospiti, per le vostre interazioni, le vostre riflessioni. Pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre 349-238-6666. Poi fra le tante cose ci collegheremo con Barcellona, con la Spagna, perché mancano due giorni all'ultimatum che Madrid ha dato al presidente catalano per dire che non procederà con l'indipendenza. Intanto ci sono decine di migliaia di persone che stanno protestando a Barcellona e nelle altre città contro gli arresti di due leader indipendentisti. Ma passiamo subito, prima di affrontare questi temi, al riassunto della giornata. Banca Italia, sì, della Camera la mozione del PD contro il rinnovo dell'incarico al governatore Visco. Mattarella sottolinea: si rispetti l'interesse del Paese. Renzi si difende: non ho un ruolo in questa vicenda. La crisi spagnola, migliaia di persone in piazza in diverse città della Catalogna chiedono la liberazione dei due leader indipendentisti arrestati. Siria, Raqqa, roccaforte dell'ISIS, liberata dai curdi con l'appoggio degli Stati Uniti. Torino, la sindaca Appendino indagata per falso in atto pubblico. Ho agito per i torinesi, dice la prima cittadina interrogata oggi. Ho chiarito tutto. Italiani che espatriano, si rafforza la fuga dei connazionali all'estero. Nel 2016, secondo un rapporto di Migrantes, ben 124.076 persone sono espatriate, più 15,4% rispetto al 2015. Ad aumentare sono soprattutto i giovani. Calcio, serata di Champions per il Napoli e Manchester contro il City, e nei sorteggi per i mondiali 2018 la nazionale per lo spareggio pesca la Svezia. Partiamo quindi da Banca Italia, dalla mozione del PD. L'Aula della Camera, come vi dicevo, ha approvato con 213 voti a favore, 97 contrari e 99 astenuti la mozione del Partito Democratico, che impegna il governo a scegliere per la guida della Banca d'Italia una figura idonea a garantire nuova fiducia all'istituto. Detto che non è il Parlamento ad indicare la figura del governatore della Banca d'Italia, ma la scelta ricade alla fine su Palazzo Chigi, la mozione a firma PD approvata dalla Camera alza di fatto un muro sulla strada della riconferma di Visco alla guida dell'Istituto di Via Nazionale. Il principale partito di maggioranza chiede all'esecutivo che venga individuata la figura più idonea a garantire nuova fiducia in Banca Italia, fiducia messa in dubbio di fatto dalla crisi delle banche. Così in aula Sanga del PD. Vogliamo che si intensifichi la vigilanza perché riteniamo che la tutela del risparmio sia prioritario. Il testo del Partito Democratico, che non nomina mai Visco, è stato presentato a sorpresa e riformulato su pressioni del governo durante il dibattito sulle mozioni di Lega e 5 Stelle, che poi bocciate impegnavano l'esecutivo a non ripresentare l'attuale governatore. Bocciata anche la mozione di Sinistra Italiana, che chiedeva di rimandare ogni decisione alla prossima legislatura. Critica al Partito Democratico da Bersani, che dice: non si può buttarla in piazza così, non si possono scaricare le responsabilità su Visco, commentano da Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in serata è appunto arrivata una nota del Quirinale. Mattarella ritiene che le prese di posizione riguardante Banca Italia debbano essere ispirate a esclusivi criteri, dice, di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituto. E poi è giunto anche il commento di Banca Italia. Nella sua azione l'istituto ha agito in continuo contatto con il governo e il governatore Visco fa sapere di essere pronto a essere audito. Insomma, questa vicenda che ripropone il rapporto complesso e delicato tra la politica e Banca Italia, torniamo tra poco. E all'indomani della presentazione della manovra emergono intanto ulteriori contenuti. Con la manovra 2018 il governo amplia la platea del reddito di inclusione. Entro la fine del prossimo anno saliranno 650.000 le famiglie che potranno usufruire della misura per la lotta alla povertà. Previsto anche l'aumento dell'assegno destinato alle famiglie numerose in difficoltà. La legge di bilancio stanzia infatti 300 milioni in più per il 2018, oltre al 1.700 milioni già disponibili. L'assegno dovrebbe quindi passare dai 480-490 euro previsti a 530-540 euro. Asse portante della manovra è la nuova decontribuzione al 50% per 3 anni sulle assunzioni dei giovani fino a 29 anni. Solo per il prossimo anno la misura si potrà applicare anche ai giovani fino a 34 anni. Per le imprese in arrivo il credito d'imposta per la formazione digitale 4.0. Via libera inoltre al rinnovo contrattuale del pubblico impiego, alle assunzioni di 1.500 ricercatori universitari e all'ecobonus per la cura di giardini e terrazzi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nei confronti della manovra si rafforza la valutazione negativa da parte dei sindacati. La segretaria generale della FIOM, Francesca Re David, dice: non c'è nulla a favore del lavoro in questa manovra, non c'è nulla sulle pensioni e ventila l'ipotesi di uno sciopero generale. Spostiamoci adesso all'estero con la crisi spagnola. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in diverse città della Catalogna per chiedere l'immediata liberazione di Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, i leader di due grandi organizzazioni della società civile indipendentiste, arrestati ieri per ordine di un giudice spagnolo che li accusa di sedizione. Candele accese in mano, la folla grida Libertad, la concentrazione più grande è in corso a Barcellona. Intanto mancano solo 2 giorni all'ultimatum di Madrid affinché Barcellona dichiari se l'indipendenza è stata proclamata o meno. E con la capitale catalana, dicevo, ci colleghiamo nel corso di Effetto Notte. Siria, dove le forze curde alleate degli Stati Uniti che combattono l'ISIS hanno liberato Raqqa, roccaforte e capitale del sedicente califfato. Le milizie filoamericane hanno issato la propria bandiera sullo stadio, ultimo bastione dei jihadisti. Sempre in Siria le forze di Damasco hanno circondato completamente l'altro bastione dei jihadisti, Deir az-Zor, e intanto l'organizzazione Save the Children dice che ci sono 270.000 civili in fuga, già una vera crisi umanitaria. E a proposito della cultura di morte, dell'orrendo oscurantismo degli integralisti islamici, in Bangladesh si riapre il caso della top model dagli occhi color del mare, Rahuda Atif. Lo scorso marzo la sua morte fu trovata impiccata con una sciarpa a un ventilatore al soffitto, fu derubricata dalla polizia del Bangladesh come suicidio e a distanza di 7 mesi, dopo un'inchiesta condotta dal programma televisivo australiano 60 minuti, il sospetto è che la top model, la modella appunto dagli occhi di mare come conosciuta, apparsa sulle copertine dell'edizione indiana di Vogue nel 2016, sia stata uccisa. A commettere il femminicidio potrebbe essere stati gli estremisti islamici per punire lo stile di vita troppo occidentale della bellissima 21enne. Corea del Nord, una guerra nucleare potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Questa è la minaccia lanciata all'ONU dal vice ambasciatore di Pyongyang al Palazzo di Vetro. Finché nessuno partecipa alle azioni militari americane contro la Corea del Nord, dice l'ambasciatore Pyongyang, noi non abbiamo alcuna intenzione di usare o minacciare armi nucleari, ha detto. Il continente americano è nel nostro raggio, se gli Stati Uniti invadono anche solo un centimetro del nostro sacro territorio, non scamperanno la nostra severa punizione in qualsiasi parte del globo. E ora torniamo in Italia, parliamo dell'indagine che coinvolge la sindaca di Torino, chiariremo tutto, ha precisato Chiara Appendino, indagata per falso ideologico in atto pubblico in relazione al bilancio del 2016. L'indagine che riguarda l'assessore al bilancio e il capo di gabinetto del comune è partita nel luglio scorso a seguito di un esposto ed è relativa al debito fantasma da 5 milioni verso Ream, scomparso nel bilancio 2016 del comune. La sindaca si dice serena al termine dell'interrogatorio durato oltre 3 ore, sentiamola. È stata una chiacchierata corretta in cui noi abbiamo esposto ovviamente quelli che sono i fatti alla luce di come abbiamo lavorato nell'ambito dell'approvazione del bilancio e tutto l'iter conseguente. Quindi io sono serena, ho fiducia piena nella magistratura e ho scelto proprio di venire qui oggi perché non abbiamo nulla da nascondere. Ho chiarito quello che c'era da chiarire, sono a disposizione della magistratura. Sono serena e abbiamo agito nell'interesse dei torinesi. Grazie. Per la cronaca, una nuova denuncia di stupro a Firenze viene da una studentessa, sarebbe una studentessa americana la vittima, arrivata in città da pochi giorni. E poi per l'inquinamento sono scattate oggi in 7 province della Lombardia le misure antismog che prevedono il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti e la riduzione di 1 grado della temperatura nelle abitazioni. Domani lo stop anche per Torino. Non solo Torino, anche la maggior parte delle province lombarde, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Lodi e Monza sono già alle prese con le misure antismog. Dopo 4 giorni di sforamento dei limiti delle polveri sottili, scatta lo stop ai veicoli più inquinanti fino a Euro 4. Si chiama semaforo antismog e, anticipazione a parte, dal 1 novembre impareranno a conoscerlo tutti gli abitanti della pianura padana, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all'Emilia Romagna. È la base infatti dell'accordo siglato a giugno tra le 4 regioni dove le PM10 fanno sentire di più i loro effetti. Un piano comune finanziato con 16 milioni di euro che entrerà a regime nel 2018. Da domani, dunque, nei comuni che hanno deciso l'anticipo, sotto scacco dopo mesi di siccità, scatta il primo livello, ma dopo 10 giorni arriverà il secondo step. Dopo 20 giorni consecutivi di sforamento del limite, arriverà il blocco totale del traffico. Quando l'accordo poi sarà in vigore, niente più decisioni caso per caso, ma per tutti, nella pianura padana, le stesse regole. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un aggiornamento in un rapporto di Migrantes, degli italiani che espatriano, continua e si rafforza questa fuga all'estero. Nel 2016, secondo questo rapporto, ben 124.076 persone sono espatriate, più 15%, 15,4% sul 2015. Ad aumentare sono soprattutto i giovani, oltre il 39% di chi ha lasciato l'Italia nell'ultimo anno ha tra i 18 e i 34 anni, e poi il 9,7% ha tra i 50 e i 64 anni e sono i disoccupati senza speranza, rimasti senza lavoro. E al 1 gennaio del 2017 gli italiani residenti all'estero sono quasi 5 milioni, il 60% in più rispetto al 2006. E poi una denuncia dell'ONU: solo la metà delle donne del pianeta ha un posto di lavoro pagato e in tutto il mondo guadagnano il 77% in meno dei colleghi uomini. Sono i dati che emergono dal rapporto The State of World Population 2017 del Fondo dell'ONU per la popolazione. 3 donne su 5, in base allo studio, non possono usufruire del periodo di maternità. Il dossier sottolinea inoltre che, a meno che la disuguaglianza sia affrontata con urgenza e le donne più povere abbiano il potere di prendere le proprie decisioni sulle loro vite, i paesi potrebbero affrontare minacce alla pace e allo sviluppo se questa disuguaglianza non viene sanata. Per chiudere, il calcio, oltre che l'Italia nei sorteggi per il mondiale è stata per lo spareggio, si ritroverà la Svezia. Dario Ricci, chiedo, mi pare che il Napoli non stia andando molto bene in questa partita di Champions. Sì, direi proprio di sì, Roberta, una doccia svedese per il Napoli finora, perché siamo alla mezz'ora del primo tempo all'Etihad Stadium, Manchester City avanti per 2-0 e in dominio totale della partita. 9° minuto, subito avanti Citizen con Sterling che infila dall'altezza del dischetto del rigore dopo una bella azione sulla sinistra degli uomini di Guardiola, e al 12° arriva il raddoppio con Gabriel Jesus. In questo caso l'azione è sulla destra ed è De Bruyne l'ispiratore, quello stesso De Bruyne che al 25° coglie anche una clamorosa traversa col suo splendido sinistro. Al 27° su girata ancora di Gabriel Jesus ci vuole giusto la reattività di Koulibaly per salvare il pallone proprio sulla linea di porta. Un Napoli che è veramente la brutta copia di quello che finora abbiamo ammirato in Serie A, dove ha conquistato 8 vittorie in altrettante gare e che quindi è sotto per 2-0 al 31° nell'altra gara del girone. Tra l'altro è finora 1-1 tra Feyenoord e Shakhtar Donetsk, risultato che lancerebbe a 4 punti gli ucraini che staccherebbero proprio i partenopei. Speriamo che magari, però la partita è ancora lunga, dai. Dai, facciamo in tempo a risentirci, Dario. Grazie Dario Ricci, vediamo se ci sono aggiornamenti più positivi. Intanto, prima di dare spazio alla viabilità e poi di ritrovarci subito dopo per approfondire alcuni temi che già vi anticipavo all'inizio, questa ascoltatrice Laura scrive: non vi ascolto più dopo giorni di non risposta a programmi più aggiornati, voleva sapere la storia degli spinaci Bonduelle. Allora Laura, avrai ascoltato tutte le sere, ho dato notizie nei giorni scorsi che sono state fatte le analisi su questi spinaci che sembravano contaminati da mandragora, per cui un'intera famiglia di Milano era rimasta intossicata. Sono state fatte le analisi, non c'entrava niente la mandragora, però poi non si è saputo più niente di che cosa ci fosse o se magari fosse stato qualche altro alimento. Non ascolti più perché non sai più che fine hanno fatto gli spinaci. Questo, diciamo, è il risultato finale, tutto quello che si sa. Laura, non mi sembra una cosa così grave per non ascoltare più, ecco, diciamo, gli spinaci. Dopodiché invece vedo già alcuni vostri commenti sulla vicenda di Banca Italia che affronteremo tra poco. Vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure potete scrivere SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano subito con voi, il riassunto delle notizie più importanti della giornata ve l'ho già fatto, tra poco vi ricordo i titoli principali per quelli che sono pronti all'appello alle 21, ricordatevi però di iniziare alle 21, stiamo insieme 60 minuti sino alle 22, ricca quest'ora di notizie, di fatti, di approfondimenti. Allora, siccome prima un'ascoltatrice Laura diceva che non vuole più ascoltare la radio perché non è stato chiarito cosa avevano questi spinaci che non andavano, quelli della Bonduelle, che insomma poi hanno detto l'ASL che non c'era la mandragola, allora un ascoltatore spiritoso a sua volta dice: allora non vi ascolto più nemmeno io perché mia moglie oggi non mi ha lasciato le polpette in frigo come mi aveva promesso. Sono dei fatti drammatici, terribili, e insomma la responsabilità si scarica tutta qui su Effetto Notte. Ma adesso invece vediamo di chi sono le responsabilità su questa vicenda di Banca Italia, di cui parleremo tra pochissimo. Intanto già qualcuno sull'inchiesta che coinvolge la sindaca Appendino di Torino comincia a polemizzare. Dice questo ascoltatore: mi aspettavo un'indagine della magistratura ai danni del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni siciliane, ma naturalmente non potevo presupporre a chi sarebbe arrivata, si potrebbe dire ironicamente a piacere. E poi un altro ascoltatore su questa cosa dice: ora attaccano l'Appendino per i guai del PD, insomma subito si scatenano, diciamo, quest'altro messaggio. E cosa sono 5 milioni scomparsi del debito su cui si indaga Torino in confronto ai centinaia di milioni rubati dai nostri politici corrotti e sempre impuniti, dice un altro ascoltatore. Va bene, adesso però ci occuperemo di altro con Barbara Fiammeri tra pochissimo. Vi ricordo che i fatti principali sono questi. Per l'appunto Banca Italia in primissimo piano, c'è stato il sì della Camera alla mozione del PD contro il rinnovo dell'incarico al governatore Visco, Mattarella sottolinea si rispetti l'interesse del paese e Renzi si difende dicendo non ho un ruolo in questa vicenda. La crisi spagnola, migliaia di persone in piazza in diverse città della Catalogna chiedono la liberazione dei due leader indipendentisti arrestati. Siria, Raqqa, roccaforte dell'ISIS, liberata dai curdi con l'appoggio degli Stati Uniti. E poi a Torino l'inchiesta che coinvolge la sindaca Appendino, indagata per falso in atto pubblico, lei dice: ho agito per i torinesi, ho chiarito tutto. È stata interrogata oggi. Gli italiani che espatriano, si rafforza la fuga dei connazionali all'estero. Nel 2016, secondo il rapporto Migrantes, ben 124.076 persone sono espatriate, cioè rispetto al 2015 più 15,4%, in particolare i giovani. Per il calcio, serata di Champions con il Napoli che soffre contro il Manchester City per 2-0, sotto il Napoli di 2 gol. Quindi adesso occupiamoci di questa vicenda di Banca Italia. C'è stata la mozione del PD oggi che è stata approvata alla Camera, una mozione la mozione del PD, dicevo, su Banca Italia, ha presentato questa mozione che è stata approvata, punta a non rinnovare, diciamo, l'incarico all'attuale governatore Visco, il cui incarico scade a fine ottobre. Questo per questa mozione del PD, in questo senso, per gli scandali bancari che sapete bene, no? Ci sono stati nei mesi scorsi. Secondo il PD, l'efficacia della vigilanza è stata messa in dubbio da ripetute e rilevanti crisi o dissesti di banche. Questa mozione però ha creato un certo scompiglio che è stata poi limata, ammorbidita in alcuni punti su indicazione del governo, però poi, dicevo, approvata con 213 voti a favore e 97 contrari, 99 astenuti. Renzi si è difeso dalle accuse di inopportunità. C'è un altro gol. Sì, c'è Dario Ricci che ci deve dire qualcosa. Ogni tanto, scusate, mi distraggono, il calcio qui fa per la maggiore. Eccomi, Dario, eccomi Roberta, scusa se incombo. Io vedo sempre ma... lo stesso risultato, vedo 2-0. Sì, ma il Napoli ha sbagliato un rigore, ha sbagliato un rigore con Mertens, c'è stata trattenuta di Walker su Albiol, su azione di calcio d'angolo, Matteo Laoz, l'arbitro, ha fischiato il penalty che poteva riaprire la sfida per i partenopei, ma bravissimo è stato Ederson, il portiere del Manchester City, a respingere la conclusione di Mertens, quindi sì, ai loro, per i tifosi dei partenopei, il risultato, come ben notavi, è rimasto lo stesso, 2-0 per il Manchester City, ma Napoli che ha fallito un penalty davvero importante. Grazie Dario Ricci. Allora Barbara Fiammeri, questo assist, quindi un rigore sbagliato quello del PD perché arriva in questo momento, è giusto, c'è stato poi l'intervento del Quirinale con una nota di Mattarella, diciamo un'oretta fa, che ritiene che le prese di posizione riguardanti Banca Italia debbano essere ispirate a esclusivi criteri di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituto. Le prese di posizione, dice Mattarella, devono essere nell'interesse della situazione economica dell'Italia e della tutela del risparmio degli italiani. A tali principi, dice ancora Mattarella, deve attenersi l'azione di tutti gli organi della Repubblica, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo. Banca Italia a sua volta ha commentato quello che è successo dicendo che nella sua azione l'istituto ha agito in continuo contatto col governo in una situazione economica molto difficile e Visco, governatore di Banca Italia, si dice disponibile ad essere audito. Barbara, ci dici che vicenda è? Come mai in questo momento qualcuno dice scarica barile da parte del PD, qualcun altro dice hanno fatto bene? Che ne pensi? Allora, facciamo un po' di cronaca, nel senso che tutto nasce da una mozione che i 5 Stelle avevano presentato, che sarebbe stata discussa oggi, questo si sapeva, in cui sostanzialmente i 5 Stelle chiedevano la testa del governatore, cioè facevano esplicitamente riferimento a Visco sostenendo che non doveva essere riconfermato alla guida di Banca Italia. Oggi il PD presenta un'altra mozione in cui non si fa il nome di Visco ma si chiede una discontinuità rispetto al passato. E quindi più o meno la stessa cosa. Poi questa mozione viene riformulata, addolcita, ma insomma il messaggio è stato inviato. È una cosa diciamo abbastanza inusuale, per usare un eufemismo, perché il Parlamento non ha alcun tipo di ruolo nella nomina del governatore di Banca Italia e quindi la presa di posizione del Partito Democratico è una presa di posizione politica, una sorta di avvertimento o di presa di distanza rispetto a quello, certo, che è successo, perché siamo in campagna come elettorale. Possiamo ormai leggere c'è chi dice che Renzi, anche se dice che non ha ruolo in questa vicenda, ma insomma è decisamente poco credibile, che Renzi abbia voluto in qualche modo appunto prendere le distanze dal governatore, come già peraltro aveva fatto nel suo libro in cui scriveva appunto che sulla vicenda banche ci siamo fidati troppo di Banca Italia, cioè di quello che Banca Italia il suo modo allora... di vigilare insomma sulle banche. E quindi diciamo con questa mozione il segretario del PD attraverso questa mozione appunto prende le distanze e il messaggio che dà all'esterno è: bene, volete fare Visco? Fatelo, ma non in mio nome, insomma, ecco, se dovessi riassumere. Questo, allora, qualcuno accusa, non so, per esempio Brunetta di Forza Italia ha detto Renzi irresponsabile, lo stesso Bersani, no? Ha detto non si può buttarla in piazza così, scelta del PD fuori da ogni logica, bisogna rispettare le istituzioni. Ti sembra che sia anche un'azione strategica in vista della campagna elettorale questa da parte del PD per dire noi siamo dalla parte dei risparmiatori, non c'entriamo niente? Certamente, certamente, perché una parte di questa campagna elettorale sicuramente verterà sul tema banche, i 5 Stelle certamente daranno rilevanza a questo aspetto nella loro campagna elettorale e quindi si mette le mani avanti. Questa è la lettura che io do di questa vicenda, anche perché che cosa accadrà? Perché poi la domanda che ci si pone in queste ore è: Visco verrà riconfermato comunque o no? Probabilmente no, dopo tutto questo, no? No, i bookmakers invece, dopo soprattutto, dopo la presa di posizione del Quirinale, danno Visco abbastanza forte, certamente. potrebbe essere lo stesso Visco a prendere una posizione diversa, per non finire in una sorta per non finire in quello che può essere un tritacarne, anche perché non dimentichiamo che in tutto questo c'è anche la commissione d'inchiesta sulle banche, dove il governatore presumibilmente verrà chiamato a testimoniare, e le commissioni d'inchiesta hanno un ruolo quasi da, cioè hanno lo stesso ruolo dei magistrati quando appunto interrogano, cioè sono vere e proprie audizioni di testimoni. Comunque diciamo, adesso vediamo appunto come prosegue la vicenda, una certa responsabilità su quello che è successo nel fallimento di varie banche, quindi con i danni per i risparmiatori, è comunque sempre un organo di controllo la Banca d'Italia, anche se Banca d'Italia ha risposto: noi abbiamo sempre agito in contatto, in stretto contatto col governo. Sì, certamente la Banca d'Italia si può quantomeno dire che non si è accorta, se questa questo non accorgersi può avere una colpa, può essere tra virgolette quella di non essersi accorti in tempo e per tempo di quanto stava avvenendo in alcune banche italiane. Detto questo, tutta questa vicenda, non bisogna mai dimenticare, è legata anche a Mario Draghi, perché comunque il ruolo di Banca Italia e il ruolo di Draghi, che di Banca Italia è stato governatore, sono difficilmente scindibili, quindi questo attacco a Banca Italia è anche un siluro nei confronti del governatore della Banca Centrale Europea. Dice che se probabilmente non era questo nelle intenzioni, cioè voglio dire che era molto più prosaicamente era molto più legata alla campagna elettorale, quindi a una presa di distanze da parte del PD, dicendo: noi volevamo discontinuità, il governo e il Quirinale hanno deciso di non concederla, se ne assumeranno le responsabilità. Bene, grazie allora Barbara Fiammeri, grazie. Questo grazie ripropone, no, questo delicato sempre rapporto tra politica e Banca d'Italia. Ringrazio l'ascoltatore, l'ascoltatrice, firmatevi, che dice: impossibile non ascoltare Effetto Notte, trasmissione molto interessante, poi una serie di complimenti. Ringrazio molto rispetto a chi dice che non ha trovato le polpette nel frigo e quindi non ascolterà più Radio 24. Grazie anche dell'umorismo, ci risentiamo tra poco, prendiamoci questa pausa. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, e poi il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato di questa vicenda di Banca Italia, che sta man mano crescendo, si sta creando un po' di tensione nel dibattito politico e non solo, insomma, nei rapporti tra Banca Italia e la politica. Adesso però ci trasferiamo all'estero. A proposito di trasferirsi all'estero, vedo molti vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito degli italiani all'estero, dei tanti italiani che continuano ad andare all'estero, della fuga dei nostri connazionali dal rapporto Migrantes, di cui vi davo notizia poco fa. C'è per esempio questa ascoltatrice, Sabina, che scrive: sì, anch'io a 44 anni sono dovuta andare via, prima in Irlanda, ora in Germania, dopo aver cercato lavoro per più di un anno a Roma e al nord. Laurea master è un passo da una seconda laurea per provare a cambiare campo. Dice: l'ennesima offerta all'estero, non ho potuto dire di no perché non si può campare d'aria. Dice: mi mancano tutto, gli affetti, il sole, il mare, il cibo, eccetera. Poi Sigurd dice: migranti economici, stiamo lentamente diventando parte del terzo mondo grazie a quei politici che da 40-50 anni giurano in TV di lavorare sodo per il bene del paese. Danilo scrive: non ho la soluzione per arginare questo fenomeno complesso e articolato che vede il nostro paese in lento e inesorabile declino. La politica e i politici hanno purtroppo margini di azione limitati dalla mancanza di sovranità economica e finanziaria. Poi c'è Maurizio, che invece fa i complimenti e dice: bene, chi è riuscito ad andarsene ne ha avuto la possibilità. Poi invece c'è Stefano, che dice: ciao Roberta, io e la mia famiglia siamo tra quelli che se ne sono andati. Ora viviamo serenamente su un'isola oceanica addirittura. pensa se meno male siete felici, e meno male che Fettonotte è ascoltato in tutto il mondo. Adesso quindi ci trasferiamo all'estero, tra poco ci colleghiamo con Barcellona. Vi ricordo però velocemente le notizie principali di oggi, che sono appunto la vicenda di Banca Italia, di cui abbiamo ampiamente parlato finora, poi la crisi spagnola, di cui ci occuperemo con decine di migliaia di persone in piazza per protestare contro gli arresti, Siria, Raqqa, roccaforte dell'ISIS liberata dai curdi con l'appoggio degli Stati Uniti, e poi Torino, la sindaca Appendino indagata per falso in atto pubblico, è stata interrogata oggi, ha detto agito nell'interesse dei torinesi, ho chiarito tutto. Italiani che espatriano, appunto i vostri messaggi, si rafforza la fuga dei connazionali all'estero. Nel 2016, secondo il rapporto Migrantes, ben 124.076 persone sono espatriate, rispetto al 2015 il 15% in più. E per il calcio, sempre in Champions, il Napoli che perde per il momento 2-0 col Manchester City. Oh, quindi adesso ci occupiamo di Catalogna e ci colleghiamo con il nostro Mario Magarò in diretta da Barcellona. Ciao Mario. Ciao Roberta. Allora Mario, non so se stai seguendo le manifestazioni, ci sono in varie città della Catalogna, in particolare a Barcellona, per protestare contro i due arresti di cui ho notato notizia ieri qui a Fettonotte. Cioè alla fine i giudici spagnoli hanno deciso per la libertà vigilata del capo della polizia catalana, che era accusato di non essere intervenuto in aiuto dei colleghi spagnoli per fermare i votanti ai seggi nel referendum del 1 ottobre, no? Però poi c'è stato quest'altra mossa contraria di arrestare due leader di grandi organizzazioni indipendentiste. Adesso i catalani stanno protestando per questi arresti, vero Mario? Sì, esattamente. Qui a Barcellona è da poco terminata la manifestazione di protesta organizzata dall'Assemblea Nazionale Catalana e da Òmnium Cultural, che sono le due principali associazioni indipendentiste catalane, i cui presidenti sono appunto Jordi Sánchez e Jordi Cuixart. Qui a Barcellona i primi dati forniti dalla Guardia Urbana, ovvero dalla Polizia Municipale, parlano di 200.000 persone che si sono date appuntamento lungo un tratto dell'Avenida Diagonale, una delle principali arterie del capoluogo catalano, e tutte hanno risposto all'appello fatto dalle associazioni indipendentiste di portare ognuno una candela, quindi si è creato anche questo effetto ottico visivo davvero, davvero di grande impatto, di migliaia e migliaia di candele. E i manifestanti hanno reclamato a gran voce la libertà per i due giorni, come vengono chiamati, libertà per i prigionieri politici, perché entrambi i giorni da ieri qui a Barcellona sono stati classificati e vengono tuttora classificati come prigionieri politici a tutti gli effetti. Hanno ovviamente augurato ad entrambi di tornare presto a casa, sottolineando i manifestanti che non sono soli. E a tal proposito Agustí Alfoberro, che è il numero due dell'Assemblea Nacional Catalana, quindi il vice di Jordi Sánchez, questo pomeriggio, intervenendo in conferenza stampa, ha detto chiaramente che per quanto i giudici di Madrid possano detenere personaggi legati all'Assemblea Nazionale Catalana, ci saranno sempre più persone pronte a prenderne il posto, perché le associazioni come la ANC, l'Assemblea Nazionale Catalana, godono di un seguito vastissimo ed il loro lavoro continuerà, sarà anzi raddoppiato dopo gli arresti di ieri. Mario, senti, come mai questo, quindi diciamo queste due azioni diverse, no? Prima hanno concesso la libertà vigilata al capo della polizia catalana, poi però subito dopo, era ieri sera, hanno fatto questi due arresti, forse perché hanno accuse più pesanti i due leader indipendentisti rispetto al capo della polizia catalana? Allora, tutti e tre sono accusati di sedizione e concretamente la giornata incriminata è quella del 20 settembre scorso, quando la Guardia Civile Spagnola fece un blitz in 14 diversi sedi istituzionali, perquisendo e arrestando diversi funzionari del governo catalano. E quel giorno Jordi Sánchez e Jordi Cuixart invitarono i catalani a scendere in piazza ed occupare soprattutto l'ingresso del Ministero di Economia. E circa 40.000 persone si diedero appuntamento fino a tarda sera. Cioè, quello che è successo è che la Guardia Civile, gli agenti della Guardia Civile rimasero asserragliati all'interno del Ministero dell'Economia fino a tarda notte. Le tre auto con cui si erano recate lì davanti furono vandalizzate e furono distrutte. A Trapero è stato contestato, che è un reato di sedizione, in sostanza è stato contestato di non aver fatto intervenire tempestivamente la polizia catalana da lui presieduta, perché il numero due è il maggiore. Invece Jordi Sánchez e Jordi Cuixart sono accusati di sedizione, ovvero di aver mosso la folla contro le istituzioni, quindi impedendo loro di svolgere il proprio lavoro. Mario, sono casi di accusa gravissimi. Senti, invece sappiamo che mancano 2 giorni all'ultimatum che il governo di Madrid ha dato al governo catalano, no? Nel senso che deve tra 2 giorni, quindi giovedì, dichiarare Puigdemont, quindi il presidente catalano, se intende o no dichiarare l'indipendenza. Che aria tira a questo proposito? Ah, la revettina è stata la nuova deadline, l'ultimatum scade giovedì alle 10 di mattina, quindi tra 30 ore praticamente. E la revettina, non credo assolutamente che Puigdemont dica a Rajoy a Madrid non ho dichiarato l'indipendenza. Quindi quello che si prevede è questo: il Parlamento catalano si dovrebbe riunire in sessione plenaria giovedì, quindi contemporanea con la scadenza dell'ultimatum, e a questo punto, Roberta, sarà inevitabile il ricorso all'articolo ormai famoso 155 della Costituzione, ormai tutti anche fuori dalla Catalogna conoscete, perché nelle ultime 2 settimane è diventato di grido. Quello che leverebbe anche l'autonomia alla Catalogna. No? Esattamente. Un articolo però mai applicato, Roberto. Cioè, in 40 anni da quando è stata restaurata la democrazia in Spagna non si è mai fatto ricorso, perché è un articolo gravissimo, perché in sostanza dice che ove mai una regione autonoma agisca in maniera lesiva dell'interesse nazionale, appunto la sua autonomia può essere sospesa previa un'autorizzazione a maggioranza assoluta del Senato. Sarebbe insomma un inedito storico. Allora aspettiamo, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Grazie Mario Magarò dalla Spagna. Ciao Mario. Ciao Roberta, buonasera. Ciao, grazie, buona serata a te. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, di quelle principali, che sono appunto la mozione del PD contro il governatore della Banca Italia Visco. Serve un cambio a Banca Italia, dice il PD, richiamo però di Mattarella nel rispetto delle istituzioni, e il governatore dice ho agito con il governo. Debito fantasma in bilancio a Torino, la sindaca Appendino indagata per falso, va dai PM oggi, dice ho chiarito tutto. Intanto Di Maio annuncia reagiremo. Cade la capitale dell'ISIS, quella che era la capitale dell'ISIS in Siria, Raqqa, ne parleremo tra pochissimo. E poi no dei sindacati alla manovra, Padoan dice abbiamo fatto il massimo. E poi giovani che fuggono all'estero, 50.000 in cerca di lavoro, molti vostri messaggi in proposito. E un'altra giovane turista americana che denuncia uno stupro a Firenze. Brivido mondiale per l'Italia, gli spareggi, per gli spareggi c'è la Svezia. E poi prosegue intanto in Champions il Napoli, che perde per il momento 2-0 col Manchester City. Quindi torniamo a parlare di Siria e di ISIS, perché le forze curde, come avete sentito, alleate degli Stati Uniti che combattono l'ISIS, hanno liberato Raqqa, ex roccaforte dell'ISIS in Siria, ex capitale del sedicente califfato, dal 2014. Le milizie filoamericane hanno quindi issato la bandiera bianca al posto di quella nera, lugubre, inquietante dell'ISIS. Una liberazione però pagata a caro prezzo, perché secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con sede a Londra, il bilancio delle vittime della battaglia per la liberazione di Raqqa sarebbe di 3.250 morti, di cui 1.130 civili. E allora chiedo al nostro Alberto Negri, del Sole 24 Ore, caro Alberto, ma l'incubo è davvero finito con questo? Ciao Alberto. Salve a tutti voi. Ma l'incubo è finito nel senso che è finita l'ISIS come entità territoriale, a parte alcune sacche di resistenza tra Siria e Iraq. Però insomma il califfato come Stato o come presunto Stato islamico insomma non c'è più. Questo significa che possiamo esultare? Beh, direi di no, perché circa un migliaio di combattenti sono stati fatti uscire dai curdi che hanno conquistato la città in ordine armato, quindi praticamente si tratta di avere paura di quello che sarà il ritorno per esempio dei foreign fighters in Europa o la dispersione dei combattenti dell'ISIS in varie aree del Medio Oriente, come la Libia, come lo Yemen, come il Sinai. Insomma, l'ISIS finisce come Stato, ma continua come organizzazione terroristica di guerriglia. Purtroppo ricordiamo tra l'altro che Raqqa, fra le altre, è una città distrutta all'80%, no? Dalle mine inesplose, dalle eventuali cellule dormienti. Save the Children parla di 270.000 civili fuggiti da Raqqa, quindi la crisi umanitaria, non dimentichiamo mai, soprattutto no, per i civili, che cosa succede, l'incubo dura a lungo, no? Anche una volta liberata la città dall'ISIS. Beh, la conquista di Raqqa ha avuto un peso durissimo per la popolazione, perché ci sono i bombardamenti americani, sono durati mesi, questa città è stata completamente incenerita. Certo, per scacciare l'ISIS però si sono anche uccisi più di 1.100 civili, ci sono 270.000 profughi, come giustamente ricordavi prima. Però poi alla fine qual è la cosa che in fondo ci interessa? Prima di tutto il fatto di dove finiranno i jihadisti e i foreign fighters. E la seconda, la contraddizione geopolitica che c'è in questa vicenda, che è palese a tutti. Cioè, i curdi siriani sono diventati conquistatori di Raqqa, mentre i curdi iracheni sono stati cacciati ieri da Kirkuk. Alberto, comunque, insomma, come dicevi, purtroppo non è finita qui. Intanto c'è quella liberazione di questa città. Si spera che la Siria possa tornare nel più breve tempo possibile, anche insomma, se un'utopia, a un minimo di normalità, cercare di dare alle persone un po' di vita più dignitosa, perlomeno non vissuta quotidianamente nel terrore. Grazie Alberto Negri. Grazie a voi. Grazie Alberto. Ora alleggeriamoci un po' con la testa nel pallone, col nostro Dario Ricci e col Napoli, che mi sembra che non se la cavi per niente bene ancora. No, direi di no, cara Roberta, perché siamo al 49esimo, al 50esimo in questo istante, quindi il secondo tempo è iniziato da poco. Napoli che è ancora sotto per 2-0 contro il Manchester City. A Manchester, ricordiamo i marcatori, Sterling al 9, 13esimo il raddoppio di Gabriel Jesus, poi al 25esimo la traversa di De Bruyne, al 27esimo Koulibaly che salva sulla linea su conclusione ancora di Gabriel Jesus, al 37esimo, come abbiamo raccontato in diretta, la grande occasione per i partenopei per accorciare già nel primo tempo le distanze col calcio di rigore di Mertens, fallito però bravo Ederson a non farsi ammaliare dall'attaccante belga. Un Napoli che ha subito nettamente nella prima metà di gara, in questo inizio ripresa sembra essersi svegliata la squadra di Sarri, ma chiaramente non basta contro un Manchester City al limite della perfezione finora. Nell'altra gara del girone importante finora l'1-1 tra Feyenoord e Shakhtar Donetsk, che lancia gli ucraini con un leggero vantaggio, un punto al momento proprio sui partenopei. E Dario, ci commenteresti anche la notizia relativa ai mondiali, alla Svezia sorteggiata? Eccoci qua, sì, ci tocca la Svezia sulla strada verso Russia 2018. Come sai Roberta, abbiamo ancora una possibilità, siamo arrivati secondi nel girone della Spagna, che quindi già si è qualificata al nostro posto, ma l'Italia insieme a altre sette formazioni europee sarà impegnata nei playoff continentali a inizio novembre. Ne passeranno quattro, le vincenti dei quattro scontri diretti andranno a Russia 2018. A noi è toccata in sorteggio la Svezia, andata probabilmente a Solna, sicuramente invece venerdì 10 novembre, il ritorno qui a Milano, a San Siro, lunedì 13. Gli altri accoppiamenti sono Nord Irlanda-Svizzera, Croazia-Grecia e Danimarca-Irlanda. Diciamo che ci è andata non benissimo tra le possibilità che c'erano, perché Irlanda e Svezia erano le possibili avversarie più quotate rispetto a Grecia e Nord Irlanda, però secondo me è stato meglio evitare l'Irlanda, che è sicuramente la formazione più ostica, che ci ha battuto anche agli ultimi europei, mentre agli ultimi europei proprio gli svedesi li abbiamo battuti. Insomma, vediamo se tutti questi corsi e ricorsi ci torneranno utili fra una ventina di giorni. Quindi meglio la Svezia, anche Ventura mi sembra ottimista, staremo a vedere. Beato lui, perché quello che si è visto le ultime tre partite non è che induca proprio a questo entusiasmo ottimistico. Vabbè, insomma, almeno di facciata deve far vedere che insomma ce la si può fare. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario. E adesso ci lasciamo, poi vi riaggiorno brevemente alle 22.